La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di questa sera è una puntata dedicata a chi si ammala di HIV, a chi ancora oggi guarda questa malattia con pregiudizio, a chi ancora oggi, a causa di una profonda ignoranza, ferisce e isola chi è malato di AIDS. Il 1 dicembre è il World AIDS Day ed è di fatto il giorno in cui si parla di questa malattia. Poi però, purtroppo, tutto torna nei cassetti della memoria. Eppure di questo si dovrebbe parlare di più, perché è vero che ci sono dei paesi nel mondo come l'Australia in cui è stata decretata la fine dell'epidemia, ma è vero anche che ci sono paesi in cui la malattia è in crescita e sta colpendo i ragazzi giovani, giovanissimi, e investire sulla ricerca ha davvero un senso vitale. A fine giugno, ad esempio, circa 18,2 milioni di persone, fra cui 910.000 bambini nel mondo, avevano accesso ai farmaci salvavita contro il virus HIV responsabile dell'AIDS, pari al doppio rispetto a 5 anni prima. Dunque, parliamo di questo e lo facciamo questa sera con Giusy, una donna di 50 anni, una donna, come sentirete nell'intervista, forte, solare e soprattutto molto coraggiosa, e questa è la sua storia. È importante parlarne, sono assolutamente disponibile a parlarne, perché proprio per questa questione di stigma, di discriminazione, non se ne parla mai a sufficienza. Io sono una persona con HIV da 17 anni e sono prima di tutto una persona, è questo che su cui noi lavoriamo ogni giorno, siamo prima di tutto delle persone. Questo stigma, la cosa assurda è che io davo per scontato che fosse scomparso, che le persone avessero capito, invece resta questa malattia come se fosse una malattia, come dire, diversa, che colpevolizza, è così? Sì, è così, perché fino a parecchi anni fa questa malattia era circoscritta a delle categorie di persone. Oggi questa malattia colpisce chiunque, ossia colpisce chiunque abbia rapporti non protetti, quindi l'etero, l'omosessuale, la persona singola, la persona sposata, la persona giovane, la persona matura, cioè non c'è una distinzione da chi o perché. E soprattutto, visto che non c'è nel quotidiano di ogni singola persona di proteggersi, di fare un controllo, una persona può avere un rapporto non protetto perché pensa: ma quella persona è una bella persona, la conosco, mi piace, e poi da lì nasce poi il passaggio, perché ancora oggi ogni persona che lo scopre, 4 non lo sanno, e questo è una cosa molto importante, perché se invece venisse usato innanzitutto il preservativo come strumento di prevenzione, e non perché non mi fido dell'altra persona che ho conosciuto, ma perché devo proteggermi e devo proteggere, e da lì poi parte il tutto. Lei è proprio la classica persona, alcuni no, quando mi hanno parlato di lei, no, la brava ragazza, ecco, perché a volte proprio anche già nella presentazione c'è il pregiudizio, no? Come se per prendere AIDS appunto ci fosse bisogno di non essere bravi ragazzi, invece adesso ci ha spiegato questa cosa che paradossalmente io pensavo fosse stata, come dire, interiorizzata dalle persone, e invece evidentemente non è. Dette tutte queste cose, la domanda che le volevo fare era se ci racconta com'era la sua vita e come ha scoperto di avere appunto l'AIDS. Certo, allora io all'epoca avevo 35 anni e ho cominciato ad avere i primi sintomi, a star male nei primi momenti a agosto 98, e hanno cominciato a curarmi per un papillomavirus, dicevano che era della famiglia dei tumori, che quindi molto probabilmente avevo un tumore all'utero. Io all'epoca avevo un ristorante di proprietà che gestivo, che conducevo io, e quindi vabbè, ho fatto tutti i vari accertamenti. Poi però comunque stavo continuamente male, arrivo a fine anno, decido di chiudere il ristorante perché non riuscivo proprio a continuare a lavorare e una ginecologa privata mi chiede il permesso di farmi anche il test dell'HIV e io le dico assolutamente sì. Quindi faccio il test dell'HIV e il test poi per le malattie trasmissibili sessualmente. A quel punto lì, 16 di marzo, mi danno il risultato, positiva l'HIV. Io non ho capito niente in quel momento. Mi hanno dato in mano l'esito e mi hanno detto che dovevo recarmi al Day Hospital delle malattie infettive. Io l'ho fatto a Como, al Sant'Anna, il test. E io sono andata, ma non capivo che cosa volesse dirmi. Poi mi ha ricevuto un medico e mi ha detto: guardi, lei ha l'HIV. Lui probabilmente il medico sapeva che la mia situazione era critica, tanto è vero che mi hanno fatto tutti gli accertamenti il 18 di marzo, il 20 mi hanno chiamato dicendomi meglio che ti ricoveri. Io mi sono ricoverata il giorno dopo, il 21, alle 10 del mattino. E all'una ero in coma. Io ricordo solo questo. Poi sono stata, avevo in corso un'infezione opportunistica, ossia una pneumocistosi al polmone sinistro, ero nella fase di AIDS conclamato. Quindi, se agosto 98 qualcuno mi avesse detto fai il test, avrei evitato i 6 mesi di sofferenza fisica, di dolori e avrei evitato di arrivare in quella situazione. Però proprio perché avevo un'attività mia, ero una brava ragazza, nessuno pensava che io potessi aver corso questo rischio. E poi mi sono svegliata dal coma dopo 50 giorni e la diagnosi è stata che avevo un'aspettativa di 6 mesi, ossia che non sarei arrivata a Natale. Ma gliel'hanno detto questo? Sì, me l'hanno detto e mi hanno detto che non c'era la possibilità di farmi una terapia. Tutto quello che mi dicevano io non capivo nulla, sono stata dimessa, sono andata a casa e poi una persona mi ha aiutato ad andare al Sacco a Milano dal dottor Moroni a fare una visita. Al che sono andati e io gli ho detto cosa mi era stato detto all'ospedale. E lui mi ha detto: no, proviamo a fare una terapia, perché abbandonare il tutto, vediamo che risultati avremo. Perché io sono tornata a casa, sono ritornata all'ospedale a Como e ho chiesto di poter iniziare una terapia. E di fatto la settimana successiva ho iniziato una terapia di 21 farmaci al giorno, assunti alla mattina, a digiuno, a mezzogiorno, con i solidi, al pomeriggio con dei liquidi, alla sera, dopo cena. E all'epoca pesavo 40 kg e nell'arco di un paio di mesi sono diventata tipo Mamma 90 kg. mia. Ed è stato scioccante. Però c'ero. La cosa che le volevo chiedere anche leggendo la sua storia era come ha fatto economicamente, perché cioè, lavorando in proprio, insomma, una malattia del genere diventa devastante anche proprio per riuscire a mettere insieme la vita, il quotidiano. Il primo anno, come stavo dicendo, da quando l'ho scoperto, soprattutto fino alla fine dell'anno, è stato terrificante perché appunto poi il ristorante è stato chiuso, ho chiuso l'attività, ho chiuso la società, però nel momento in cui io mi sono aggravata, hanno fatto in ospedale la richiesta per la domanda della pensione del lavoro e io all'epoca avevo già 16 anni di lavoro alle spalle perché avevo iniziato giovanissima, quindi ho potuto ricevere, prima ho ricevuto un contributo dal comune di Como tramite l'assistente sociale e poi a dicembre 99 mi è arrivata la pensione del lavoro che ho tuttora, quindi usufruisco di questa pensione del lavoro che mi ha permesso all'epoca di riprendere a vivere e di andare avanti. È stato terrificante perché attorno a me si è creato il vuoto, non ho avuto accanto nessuno e sono andata avanti, tante volte mi dicono come hai fatto, Io credo un po' per disperazione, un po' perché se mi sono svegliata dal coma c'era un motivo e quindi non avevo il diritto di fermarmi o di cercare di migliorare la situazione o di fare quello che era possibile fare. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, Container con Massimo De Donato. La prima volta. Seconda parte della prima volta che questa sera si dedica all'AIDS, una malattia della quale, come dicevamo, si parla troppo poco, ma che continua a mietere vittime. Tra il 2010 e il 2015 il numero di nuove infezioni da HIV nel mondo tra le giovani tra i 15 e i 24 anni è stato ridotto di appena il 6%, quindi da 420.000 a 390.000 persone. Alcuni studi hanno rivelato che in Africa meridionale le ragazze rappresentavano il 90% di tutte le nuove infezioni tra i 10 e i 19 anni. Anche in Italia il problema resta reale e sentito soprattutto nelle fasce dei ragazzi molto giovani. Il 1° dicembre è il World AIDS Day. La LILA, l'associazione che si occupa di malati di HIV, sta organizzando un sacco di cose per quel giorno. Andate a vedere sulla loro pagina. Se non siete convinti, invece vi convincerà Giusy, questa donna fortissima che sta affrontando la malattia con grande generosità. Questa è la sua voce e questa è la sua storia. Sono arrivata in LILA, prima di tutto sono stata aiutata all'inizio per svolgere le pratiche, all'epoca ero separata, quindi per avviare le pratiche del divorzio. Poi non sapevo come poter ringraziare questa associazione che mi aveva aiutato inizialmente proprio con un'azione concreta. Lì mi è stato proposto di entrare a far parte dei gruppi di autoaiuto, di partecipare a dei corsi che si fanno tuttora per conoscere il mondo dell'HIV e io il 23 luglio del 2000 sono entrata nella mia sede di Como e da lì ho iniziato tutto un percorso. A me è sembrato naturale, nel senso che ho sempre lavorato da quando ho 14 anni, quindi andare lì dalla mattina starci fino a metà pomeriggio perché all'inizio le mie risorse fisiche non erano ottimali, mi sembrava la cosa migliore. Da lì poi ho iniziato a fare un percorso, ho fatto dei corsi di counseling, da qui faccio centralino telefonico, colloqui vis-à-vis, mi occupo di tante cose. Per me è normale, nel senso che per me è la vita, non vivo solo di Lila, ho una mia vita privata, però la Lila fa parte della mia vita e rendermi visibile, ho iniziato poi nel 2008 a dichiararmi, a rilasciare interviste e l'ho sempre fatto con un obiettivo, lo faccio tuttora con questo obiettivo. Sì, raccontare la mia storia, ma soprattutto ogni volta che io mi dichiaro, c'è sempre qualcuno che mi dice: ma non si direbbe, ma come mai? Allora, noi siamo persone. Io lo faccio per chi non può, per chi non vuole, proprio perché oggi ci sono ancora tante persone che non riescono a raccontarsi, che non riescono nemmeno a dirlo a chi hanno accanto. E nel tempo questa cosa crea sofferenza, perché se tu hai una cosa importante tua, non puoi continuare a non dirla a nessuno, devi poter parlarne con qualcuno. E questo per me è la cosa importante. Poi da qui la difesa dei diritti delle persone con HIV, la tutela negli ambienti di lavoro, cioè poi si apre un mondo dove l'intervento che noi facciamo come associazione è ogni giorno immenso. Tu poi hai anche deciso di come dire, di programmare la tua vita, io ho letto, no? Prima facevi dei programmi. Com'è questa storia? Me la spieghi? Allora, dato che mi avevano dato 6 mesi e poi invece alla fine un anno è passato, 2 anni sono passati, allora dato che sono sempre stata, sono credente ma non pratico, però il primo anno una cosa che mi ha aiutato molto oltre la disperazione a non mollare è stato anche la fede, quindi io ho detto vabbè, facciamo così. Facciamo un contrattino, 5 anni con 5 anni, quindi sono arrivata ai 40, mi sono risposata per la seconda volta a 40 anni, poi vabbè, il matrimonio è andato male ma non per l'HIV, perché mio ex marito si è innamorato di un'altra persona e la vita, quindi è andata così. Poi sono arrivata ai 45, poi sono arrivata ai 50 e ai 50 ho detto ok, a 50 anni ci sono arrivata, adesso facciamo un contratto di 10, sono cresciuta e quindi adesso voglio arrivare ai 60, ho ancora un po' di anni. Quindi... Senti, invece per quanto riguarda, diciamo, sogni nel cassetto, tu nel ristorante cos'è che facevi quando l'hai chiuso? Cucinavi o eri... Sì, cucinavo, facevo tutto, servivo, perché ho avuto 3 attività, una in società e 2 per conto mio. No, questo è un lavoro che non potrò mai più fare, nel senso che... a livello fisico sento dei limiti, una cosa che ho imparato è ad accettare i miei momenti no perché ci sono e a capire le cose che non posso fare. Oggi però in associazione faccio talmente tante cose che al centro c'è la persona che arriva, che chiede, quindi assolutamente rimane, ogni tanto sogno che sono al ristorante. Però sogni nel cassetto io non ne ho, sono una persona oggi serena, con i miei momenti no, amo molto leggere, ho un cane, quindi passeggio, faccio delle bellissime passeggiate con lui, ho pochi amici ma buoni, non ho sogni nel cassetto, io non ho, in questo momento voglio solo poter andare avanti, giorno per giorno, programmando non tantissime cose, ma nel quotidiano delle azioni e poterle poi realizzare. L'ultima domanda. Lei prima ha detto, in fondo, se penso a, guardandomi indietro, la malattia, questa malattia mi ha cambiato in meglio, quindi non cambierei niente della mia vita. Esatto, sì. Io più volte ho detto che sono contenta di avere l'HIV. Oggi grazie alle terapie oggi assumo 2 farmaci al giorno, quindi oggi sono molto meno invasive dei primi anni, non danno effetti collaterali, ma soprattutto io ho perso tanto nella mia vita, ma ho veramente guadagnato tantissimo. Io dico sempre che sono in una posizione dove posso scegliere cosa fare, anche nel momento della sofferenza, della mancanza di soldi i primi anni, ho avuto la fortuna di poter scegliere di entrare in un contesto associativo e di spendere il mio tempo. Quando io sono in associazione mi spendo per gli altri, ma alla fine io sto bene, quindi questa è una cosa che mi rende orgogliosa di essere all'interno della Lila, di farne parte e di avere accanto, lì è un'associazione di persone positive, non per me le persone negative in associazione sono un valore aggiunto, perché io ci sono entrata per un bisogno, ci sono rimasta per restituire ciò che mi era stato dato, ma le persone negative per me sono quelle che mi dicono stiamo facendo qualcosa di importante, di serio. E ogni persona che riusciamo a aiutare dandogli gli strumenti, non siamo un'associazione di assistenzialismo, ma gli strumenti per migliorare la propria vita, credo che sia doveroso e a me piace farlo. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete riascoltare questa o altre puntate, andate sulla nostra pagina, andate sul sito di Radio 24, cercate La prima volta, oppure Radio 24 La prima volta. Questo è il nostro indirizzo su Facebook. Grazie a tutti e buona serata.